Radio 24 Reportage. L'Istituto Tecnico Professionale di Stato di Vanadzor in Armenia porta i segni del collasso dell'Unione Sovietica. Crepe vistose sui muri, intonaco scrostato, umidità, fili elettrici a vista, toilette in condizioni disastrose. Ma anche poster sovietici e un ritratto di Marx. Da quasi 20 anni nessuna manutenzione. Eppure per frequentare la scuola i 320 studenti pagano tasse pari a circa $200, che per un padre di famiglia che ne guadagna altrettanti al mese non è poco. Siamo a Vanadzor, la principale città della verdissima regione di Lori, che confina con la Georgia. Le strade, piene di buche, sono percorse da vecchi modelli di auto sovietiche. Le case avrebbero bisogno di una bella ristrutturazione. Le montagne sono visibili da qualsiasi punto della città. In questa regione vivono circa 280.000 armeni. Agricoltura e allevamento sono la principale fonte di sostentamento di molte famiglie. Si producono latte, formaggi e frutta secca. Ma i mezzi sono pochi e spesso si riesce a malapena a sopravvivere. Artak Akbalian, responsabile del Dipartimento Formazione Professionale del Ministero dell'Educazione armeno. Quando l'Armenia era sotto il controllo dell'Unione Sovietica, le risorse destinate alle scuole professionali erano soddisfacenti. Una volta diplomati, gli studenti trovavano subito lavoro nell'industria, senza problemi. Ma a cominciare dal 1990 e fino al 2004, nulla di serio è stato fatto in questo settore. Solo negli ultimi 4-5 anni, con il supporto dell'Unione Europea, abbiamo cominciato a rinnovare queste scuole. All'università e alle altre scuole è andata meglio, ci sono stati 6 anni di blackout, ma per le scuole professionali sono stati 15. Gajik Makarian, direttore dell'Associazione Imprenditori della Repubblica di Armenia. Negli anni dell'Unione Sovietica si spendevano circa 100-150 milioni di dollari all'anno per il sistema educativo. Nessuno studente temeva di non trovare lavoro. Tutto era pianificato, anche il tirocinio all'interno delle imprese o dell'industria. I soldi venivano investiti negli edifici, nel mobilio, nel materiale scolastico. Servivano a pagare gli insegnanti e la loro formazione continua. Ma dopo il collasso dell'Unione Sovietica, molte scuole non hanno più avuto finanziamenti. Nessuna manutenzione per 20-25 anni. L'Armenia ha una popolazione di 3,1 milioni e di questi circa 700.000 sono anziani o invalidi e 780.000 sono giovani fra i 16 e i 30 anni. Noi vogliamo che i giovani abbiano una buona educazione, che siano preparati e competitivi, che trovino un lavoro. Per ristrutturare scuole come quella che visitiamo, è scesa in campo l'Unione Europea con un finanziamento totale di circa 20-25 milioni di euro all'anno, 95 milioni spalmati su 4 anni. Milena Corradini, responsabile per i progetti in Armenia di European Training Foundation, agenzia europea con sede a Torino che si occupa dei programmi di formazione. L'Armenia fa parte di uno del gruppo di paesi che riceve assistenza finanziaria dall'Unione Europea nell'ambito dello strumento che si chiama politiche di buon vicinato. Negli ultimi anni i progetti hanno riguardato in particolare educazione, istruzione, formazione professionale, la riforma del sistema giudiziario. Siccome esiste un divario di qualità che è enorme tra le scuole professionali e i licei, l'Europa interviene appunto per cercare di colmare questo enorme divario. Io ho visitato scuole professionali dove non hanno il riscaldamento da 20 anni. L'Armenia oggi è un paese povero Nel 1991 ha raggiunto l'indipendenza dopo anni di Unione Sovietica, ma la democrazia è solo apparente. Non c'è libertà di espressione, l'opposizione non ha spazio. Qualcuno rimpiange l'Unione Sovietica, tutti avevano uno stipendio basso, ma il lavoro non mancava. Oggi la disoccupazione è ufficialmente al 7%, ma secondo fonti non ufficiali è intorno al 30%. Vahema Krishan, insegnante e interprete. In Armenia c'è ospitalità alta. Talvolta questa ospitalità è comica. L'ospite non vuole, no, tu devi mangiare questa cosa, no, tu devi bere questa cosa, no, tu devi andare a questo posto, tu devi andare. E non chiedono se tu vuoi o non vuoi. Se sei ospite, tu devi fare qualcosa perché io ti lo faccio. E loro si offendono se l'ospite rifiuta di fare qualcosa. Armeni sono molto conservatori, anche i giovani, perché loro si guardano come moderni, però dentro di loro. Loro sono conservatori, cercano di guardarsi come gli europei, però loro pensano come gli azeri. Armenia non è Eastern Europe, Armenia è Western Asia. In società armena, la maggior parte non si accetta il sesso prima di matrimonio. Però c'è sesso dovunque. Un paese tra Oriente e Occidente. Gli armeni si sentono isolati anche geograficamente. I confini sono chiusi con la Turchia e l'Azerbaigian. Restano la Georgia e l'Iran. La ferita del genocidio, 1,5 milioni di morti, la madre di tutte le pulizie etniche che la Turchia non vuole riconoscere, brucia ancora. Con l'Iran, invece, i rapporti sono buoni. Rach Hovhannissyan, 18 anni, studente del primo anno della facoltà di lettere e giornalismo. Siamo noi giovani che cambieremo molte cose. Per esempio, la gente di Vanazor non fa molte cose. Pensa di non poterle fare. Ma bisogna essere liberi. Per questo voglio andare a Yerevan. Lì si sentono più liberi. Ci sono molte persone che sono arrabbiate con i turchi e con gli azeri, ma sono cose passate. Io non sono arrabbiato. Ascoltiamo musica americana, rock, hip hop, tango. Amo molto ballare. Quando ascolto la musica, ballo sempre. Tate Hovhannissyan, 20 anni, studentessa alla facoltà di geografia. Sogno di visitare Parigi perché adoro quella città e la cultura francese. Dopo i miei studi vorrei lavorare nel turismo, con un gruppo turistico, oppure in una banca, non so. Nella nostra città non ho possibilità di trovare lavoro, ma per esempio nella capitale, Yerevan, dove la gente è molto attiva, penso di trovare. Non amo la mentalità chiusa e poco liberale di Vanazor. Negli ultimi 20 anni, la formazione offerta dalle scuole professionali in Armenia si è rivelata inadeguata ai bisogni del mercato. Ma i giovani inseguono i loro sogni con tenacia e ambizione. Aram Melikian, 20 anni, studente del corso di marketing dell'Istituto Tecnico di Vanazor. Quello che mi piacerebbe fare dopo la scuola è creare un network di negozi o di supermercati in Armenia che portino il mio nome. Credo che quello che ho imparato qui mi sarà sufficiente perché in futuro possa trovare un lavoro o anche cominciare il mio business. Voglio farcela da solo. Aram frequenta la scuola da 2 anni. Anche in inverno, quando il riscaldamento non c'è e bisogna coprirsi bene per resistere a temperature sotto lo zero. Ma gli studenti, dice, non ci fanno caso. Quanto alle toilette? Facciamo del nostro meglio per non utilizzarle. Facciamo in modo di organizzarci per non dover andare al bagno qui. Anche se protestiamo, non cambierà nulla. Anche Anusha Hababian studia marketing e ha le idee chiare. Vorrei continuare a studiare, ma al tempo stesso vorrei mettere in piedi il mio negozio di gioielli, anzi, una rete di negozi di gioielli. Non credo che potrei trovare un lavoro a Vanadzor, perciò non voglio restare qui. Vorrei cercarlo a Yerevan, la capitale, perché lì le chance di trovare un lavoro, di realizzare le proprie aspirazioni, sono sicuramente maggiori. Con i fondi dell'Unione Europea, la scuola di Anush e Aram si è dotata di riscaldamento e di computer. Internet non c'è ancora e i ragazzi non conoscono Facebook né YouTube. I cambiamenti richiedono tempo, soprattutto in un paese dove la corruzione è a tutti i livelli, come ci spiega Vahema Krishan. C'è corruzione nell'Armenia, ma senz'altro c'è. Io credo che ci sia corruzione su tutti i livelli della vita di Armenia, sul alto livello, medio livello e sotto livello. Però corruzione come se non è un gran problema. Il problema è che non c'è un esigio popolare per ridurre o per eliminare la corruzione. Perché per la gente, questa è la mia opinione, per la gente è molto comodo di vivere con la corruzione, perché la corruzione è un medio per sorpassare molti ostacoli. Per esempio, lo sistema d'educazione, soprattutto le università, per una certa parte degli studenti è molto più comodo di pagare ai professori per ricevere degli esami, dei test, che studiare. E siccome gli stipendi di professori sono molto, molto bassi, i professori prendono in certi casi loro soldi per mettere i marchi. Ognuno sa in questo paese, questo non è una cosa che non è un segreto, ognuno sa. No, la situazione non è così solamente nell'educazione, in polizia, nel sistema di salute, di sanità, in governo. Corruzione è un modo per semplificare, per sorpassare gli ostacoli burocratici. Anche nel mondo dell'impresa c'è corruzione. Il direttore degli imprenditori armeni, Gajik Makarian. La corruzione deriva da una concorrenza diseguale per compagnie private e statali. È a livello di sistema fiscale, giudiziario, di dogana. Uno studio europeo ha evidenziato che il grado di consapevolezza della corruzione è al 67%, una percentuale molto alta. Vuol dire che molti sono pronti a pagare immediatamente, se viene chiesto. Ogni anno l'Agenzia di riscossione delle imposte svolge ispezioni nelle aziende. Inoltre ci sono più di 20 organismi ispettivi che svolgono controlli sul lavoro e sull'igiene. Ogni ispezione genera corruzione. Spesso le nostre aziende non sono in grado di rispettare certi standard e quindi vengono trascinate in tribunale. Allora preferiscono pagare.